Pensate in termini di rapporto. Se 3 parti di farina corrispondono a 15 kg, quanto vale una parte? E di conseguenza, quante saranno 2 parti d'acqua?